Victoria. Doveva avvicinare Tommy e attaccare discorso, ma la giovane donna non si staccava un attimo dal suo fianco. Ormai la crociera era in corso da 2 ore. Le luci che si vedevano attraverso i finestroni erano sempre più rade e gli ospiti attorno a lei sempre più ubriachi. Victoria restava vicino al bar, rispondendo a monosillabi se qualcuno le rivolgeva la parola, senza perdere d'occhio il suo obiettivo. Una band si preparò a entrare in scena. Una cantante bionda strizzata in un giubbotto di pelle afferrò il microfono e i musicisti impugnarono gli strumenti, accolti dalle ovazioni del pubblico. Quando Victoria tornò a guardare verso Tommy, era sparito. Frugò con gli occhi tra la folla e dopo un attimo lo vide di schiena, immerso in una conversazione con l'uomo che prima aveva dato il benvenuto agli ospiti. La donna non c'era più. Forse era andata in bagno. Doveva agire subito. Si era preparata accuratamente per la recita. Con il bicchiere in mano, si fece strada fra la gente che seguiva la band. Sfiorò il gomito di Tommy e bisbigliò la frase che aveva provato e riprovato, che però fu sommersa dagli applausi per la cantante sul palco. Lui la guardò senza capire. «Lavoro all'ambasciata russa». «Ho informazioni su certe attività di spionaggio nei confronti della Svezia», ripeté a voce più alta. «Mi segua, dobbiamo parlare». Tommy restò a bocca aperta, ma si riprese in fretta. Annuì e fece un gesto verso l'uscita di fianco al bar. Nessuno badava a loro. Tutti gli sguardi erano fissi sul palco, dove la cantante aveva attaccato il primo brano. Percorsero in silenzio un corridoio deserto, fino a fermarsi davanti a una porta che dava sul ponte. «Da questa parte», disse Tommy tenendogliela aperta. Victoria fu sollevata nel vedere che il giornalista faceva il suo gioco. Sul ponte non c'era nessuno, ma si diresse comunque a prua per evitare che qualche ospite preso da un'improvvisa voglia di fumare li vedesse. Una volta girato l'angolo, si fermò accanto al parapetto, imitata dall'uomo. La nave apriva squarci di schiuma bianca nelle acque scure. Tutti intorno si vedevano solo boschi. Tommy appoggiò i gomiti al parapetto, mentre Victoria posava la borsa a terra, in mezzo a loro. «Ha detto che lavora per l'ambasciata russa?» Lei annuì senza incrociare il suo sguardo. «Il mio paese vi spia. Abbiamo delle cimici nella redazione del suo giornale». Tommy si accarezzò il mento. Sembrava scettico. «E perché lo racconta a me?» «Perché voglio lasciare la Russia e chiedere asilo in Svezia». Lui tirò fuori un pacchetto di sigarette e ne offrì una a Victoria, prima di servirsi a sua volta. «Ho smesso da un pezzo, ma alle feste fumo ancora», spiegò porgendole l'accendino. I loro occhi si incontrarono per un istante alla fievole luce della fiamma che si accese tra le mani a coppa. C'era un che di intimo in quel gesto, e quell'uomo aveva un certo fascino. La sigaretta non voleva accendersi. «Lasci, faccio io». Victoria gli prese l'accendino e si spostò sotto vento. Tommy tornò a girarsi verso l'acqua. Sarebbe bastata una bella spinta. «Ce l'ha fatta?» le chiese senza voltarsi. «Quasi», rispose lei. Poi si tolse rapidamente i tacchi e si lanciò su di lui.